12:32 di venerdì 20 dicembre 2024. La città si avvia con le ultime energie rimaste all'inverno nucleare che segue il Natale, che sarà un momento bellissimo per finalmente vivere la città, anche perché forse, insomma, come sembra, molti cantieri del Giubileo saranno chiusi e quindi potremo rivedere le fontane, alcune piazze pedonalizzate. È già partita naturalmente la contronarrazione autodistruttiva dei romani, che evidentemente in larga misura preferiscono autocertificare così una cittadinanza onoraria di qualche città scandinava, ma la verità è che sicuramente, insomma, la città ha prodotto uno sforzo importante, uno sforzo notevole. Mentre io sono reduce ancora dal Maxi, dove sono state inaugurate 4 nuove mostre, alcune assolutamente impalpabili nel solco del famoso Museo dell'Arte Innocua, di cui ho già parlato in qualche intervento precedente, altre come pura espressione di una volontà aziendale. Penso alla mostra della società Autostrade, per carità anche interessante, però insomma lascia un po', per esempio, interdetto il pudore con cui la vicenda del crollo del ponte Morandi sia trattata, quasi come un lutto, qualcosa che non si può menzionare. C'è soltanto a un certo punto stampata da qualche parte la data dell'agosto 2018, se non sbaglio 2019, insomma il momento in cui il ponte crolla, ma non c'è nessuna spiegazione, anzi c'è tutta una prolusione autocelebrativa dei programmi di recupero di tutta quell'area, il che significa appunto quello che succede quando tu affidi un'intera mostra di fatto all'azienda di cui stai parlando. È il minimo che possa succedere. Succede anche alla pur bella mostra sulla Nutella, dove non si parla di Nanni Moretti, perché chiaramente lì potrebbe scattare chissà quale istinto non protetto, no, dal messaggio strettamente corporate, che invece trionfa in tutte le sue forme. Ci sono per fortuna anche delle mostre belle, per esempio la mostra di Guido Guidi, fotografo molto, diciamo, legato al suo territorio e al suo archivio. La consiglio per tutti quelli che vogliono lanciare uno sguardo diverso anche sulle semi-rovine di questa Italia post-industriale. E niente, comunque in generale vi consiglio di sfruttare la città adesso che tornerà ad essere vivibile, anche per vedere cose su cui si possono avere le opinioni più ampie, più vaste. Per esempio la mostra del futurismo, che mia madre si è subito affrettata a definire la più completa mai realizzata. Le credo, anche se si nutre quasi esclusivamente dei messaggi dominanti dei media principali.